Possibile guardati intorno, alternative miste andata senza ritorno. Quello che fai non è mai perduto, quello che sogni va sempre inseguito. Niente impossibile guardati intorno, alternative miste andata senza ritorno. Quello che fai non è mai perduto, quello che sogni va sempre inseguito. Niente impossibile se mi guardo intorno. Inizio dal mattino sapendo che è buongiorno. Sul passato scrivo fine, io non ci torno. Ho buttato sin troppe rime nel mio soggiorno. Il mondo è ricco di opportunità, che dici? In giro queste fingono come brave attrici, che quando ti innamori e fai dei sacrifici, finisci sull'altare della serie ma ti infelici. Credo che alla solitudine, all'occorrenza, credo che prima di parlare meglio pensa. In questa città diventata ormai immensa, non si lavora con la giusta ricompensa. Avevo un sogno chiuso nel cassetto, solo che era errato, ho messo del bianchetto. Se a volte lo ammetto, solo un difetto, sembra che le mie parole non abbiano più effetto. Ascolto la gente senza distrazione, gli altri fingono tentando l'illusione. Evitano il sorpasso per la collisione e restano indietro come questa generazione. Ascolto buona musica ed ogni suo suono che proviene dalle cose belle che adoro. Se qualcuno mi pugnala non credo al perdono, la lotta è lunga se ambisci al trono. Niente impossibile guardati intorno, alternative mi sei andata senza ritorno. Quello che fai non è mai perduto, quello che sogni va sempre inseguito. Niente impossibile guardati intorno, alternative mi sei andata senza ritorno. Quello che fai non è mai perduto, quello che sogni va sempre inseguito. Può essere questione di autostima, può cambiare il morale se cambia un po' il clima. A volte puoi sentirti meglio di prima, come non esisterebbe un mondo senza la figa. Credo sempre nelle buone azioni, nel rispetto verso gli altri e nei valori. Col nemico non aspetto che peggiori, lo lascio nella merda e nei suoi errori. Sono stanco delle corruzioni, dei poveri illusi, vittimismo, molestie e soprusi. Piuttosto imparo di usi e di costumi. Siamo in un'Italia per bene, vittima di abusi. Abusivismo c'è, marcio quasi ovunque. Prendono possesso gente qualunque di un qualcosa che è nostro e non difendiamo. Piuttosto puntiamo il dito senza alzare una mano. Baccolo ma non mollo, è stile di vita. Può cambiare il film ma è la stessa sigla. Quello che fai non buttarlo via. Se c'è puzza di merda si sente la scia. Orientamento e movimento composto, quello che non va bene qua io lo sposto. Ma niente a posto se torni indietro sui tuoi passi, quando dietro ti ha pestato merda su quei sassi. Niente impossibile guardati intorno, alternative mi stai andata senza ritorno. Quello che fai non è mai perduto, quello che sogni va sempre inseguito. Niente impossibile guardati intorno, alternative mi stai andata senza ritorno. Quello che fai non è mai perduto, quello che sogni va sempre inseguito.